ci siamo messi d'accordo quando iniziare, con quale delegazione, dove e di che cosa parlare. E abbiamo anche convenuto, la cosa più importante, che questa deve essere una trattativa serrata e chiudere, si deve chiudere prima della presentazione della nuova finanziaria. Prevediamo che il governo debba poter intervenire sostenendo questo accordo.